Siamo in collegamento con Roberta Nicolai per parlare della 11ª edizione di Teatri di Vetro. Roberta, ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, raccontaci un po', tanto per chi ci ascolta e non conoscesse questo festival, quali sono le sue peculiarità? Una programmazione prevalentemente italiana, anche se mi contraddico immediatamente, perché il primo appuntamento romano riguarda un focus di danza araba. La peculiarità di Teatri di Vetro è il suo spostarsi sempre di più secondo le esigenze del suo essere un progetto artistico, quindi in realtà negli ultimi anni abbiamo sempre di più dilatato spazio e tempo. Infatti abbiamo già cominciato di Vetro a Tuscania e ora siamo tornati a Roma per l'inaugurazione appunto romana, e proseguiamo poi fino al 12 novembre, sempre a Roma, finiamo in realtà a Ostia. Quest'anno l'attenzione particolare è proprio il claim, guarda indietro, guarda avanti. In qualche modo il festival indaga il rapporto tra la creazione contemporanea e un movimento in qualche modo a ritroso, in direzione dell'origine, che si esplicita in tanti modi diversi. Ci sono nella programmazione diverse riscritture di classici. È un modo che gli artisti hanno di confrontarsi con i classici, ma rileggendoli dall'interno e restituendoli alla nostra contemporaneità. E in particolare nell'immediato, in questa settimana, programmiamo a Carrozzerie Notte il 22, partecipavo a questo focus di danza araba, a cui teniamo particolarmente. Abbiamo costruito insieme ad altre 10 strutture del territorio nazionale un network che ha consentito a 6 coreografi dell'area del Mediterraneo di circuitare in Italia dalla fine di maggio fino adesso, cioè noi concludiamo la tournée. È particolarmente interessante, è stato particolarmente interessante conoscere e consentire a questi giovani artisti di sperimentarsi in modalità diverse in territori diversi e far incontrare gli artisti arabi con gli artisti italiani. In particolare noi programmiamo 2 masterclass in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza. In questo caso specifico, guarda indietro, guarda avanti, è proprio pertinente e anche molto semplice da leggere. Gli artisti arabi rileggono e rincorporano le matrici espressive delle loro danze tradizionali, costruendo il loro linguaggio scenico proprio a partire da alcuni nodi, nuclei delle loro danze di tradizione, in particolare danza racca e la danza invece sufi, i rituali sufi. Quindi invito intanto nell'immediato tutti il 22 settembre ad attraversare questa bellissima esperienza di conoscenza di una cultura che è appunto molto molto marca una differenza rispetto alla nostra, ma anche radici molto comuni. E dall'inizio di ottobre poi cominciamo a programmare un teatro danza in una maniera un po' più consueta, cioè teatro. Il primo spettacolo è la riscrittura in sardo fatta da Alessandro Serra del Macbeth, che si intitola Macbeth, è recitato da 8 uomini ed è il primo esempio di questo rapporto con il passato che porta ad una vera e propria riscrittura, in questo caso in un'altra lingua, ma anche una riscrittura scenica, uno spettacolo di eccezionale potenza visiva che programmiamo al Vascello e che apre poi tutto il calendario di tutto ottobre, per concludere poi a novembre con danza e musica dei giovani emergenti. Roberta, una curiosità, volevo chiederti intanto se ci sono dei giorni fissi settimanali dedicati al festival e quali fasce orarie. Se ci sono, scusa, non ho capito. Dei giorni fissi settimanali dedicati al festival. Beh, non esattamente, okay. Nel senso che abbiamo invito tutti a guardare il sito teatrivetro.it in questa ottica di dilatare il tempo e lo spazio per consentire appunto di non consumare spettacoli ma di poter entrare in contatto con l'espressione artistica. In realtà noi programmiamo, lasciando tra un piccolo blocco e un altro alcuni giorni vuoti, volutamente, nel senso che è stato proprio, anche questo è una modalità che abbiamo scelto, una sorta di mappa per consentire anche allo spettatore che vuole, che ha la pazienza di seguire più spettacoli possibili, di cominciare questo ritorno verso casa, che è un po' la chiave con cui guardare tutti questi lavori. Roberta, in chiusura, allora ci dici i luoghi e date del festival. I riferimenti web già li abbiamo dati. Va bene. E appunto questa settimana cominciamo a Carrozzerie Notte, è uno dei luoghi, è lo spazio che ospita formati non convenzionali. Cominciamo poi in realtà anche con Salvo Lombardo a Fondazione Volume, è un'installazione performativa che ha un'assonanza, anzi proprio una comunanza con lo spettacolo che poi Salvo presenterà invece in teatro il 10 ottobre. L'altro teatro che utilizziamo è il Vascello, in apertura il 2 ottobre e in chiusura il 30 ottobre, in chiusura di questo blocco centrale. E siamo poi a Centrale Trenette per alcuni spettacoli, segnalo in particolare il spettacolo dei Sanni, sull'amica geniale di Elena Ferrante, e utilizziamo quest'anno, abbiamo cominciato una relazione anche con il Brancaccino, dove ospitiamo degli spettacoli più legati alla drammaturgia contemporanea, e a novembre siamo al Teatro del Lido a Ostia con tutta una programmazione di giovani artisti emergenti della danza e della musica elettronica e della classica. Benissimo. Allora, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto, Roberta. Ciao. Ciao a tutti, ciao.